Capitolo 17. L'inverno arrivò prima che Ingeborg, dopo numerosi falsi allarmi dovuti al grande desiderio di donare a Robert la felicità che tanto desiderava, fosse in grado di assicurargli che quanto prima sarebbe diventato padre. E io? Disse, guardandolo con una sorta di sbigottita meraviglia ora che stava davvero accadendo. Credo che diventerò madre. Herdre me le ribatté in tono asciutto che in tal caso sì, supponeva lo sarebbe diventata. Si rifiutò però di mostrare ulteriore entusiasmo fino a che non mi fosse stata maggiore chiarezza. Aveva avuto così tante delusioni durante l'estate. Spesso però si era trattato solo di uva spina, altre volte invece di un'incipiente freddatura dovuta alla passione di sua moglie per il barchino, che faceva acqua, e per le sue lunghe passeggiate in cerca delle zone più popolose di rane lungo la sponda del lago, indossando scarpe poco adatte allo scopo. Animata soltanto dallo zelo di realizzare il desiderio del marito, ogni qualvolta percepiva anche la più debole sensazione di leggero malessere, piombava con aria di trionfo nel suo laboratorio, affrontando la porta serrata e sfidando la sacralità di quel luogo per dargli la buona notizia. Rimaneva in piedi con aria radiosa, articolando annunci che suonavano come parafrasi delle sacre scritture. I primi rudimenti della lingua tedesca che apprese e usò furono quelli comunemente usati in ogni famiglia in tali occasioni, vale a dire quelli che parlavano di buona speranza e di lieta novella. Per un certo periodo di tempo, Herr Dremmel accolse queste esternazioni con emozione ed esaltazione, eppure man mano che l'estate avanzava, portando con sé un'ampia offerta di pere e di susine inizialmente troppo acerbe e successivamente troppo mature, mentre il sole che batteva caldo aveva al contempo portato a maturazione anche i meloni, egli imparò a interrompere tali annunci, tagliando corto e chiedendo lei che cosa avesse mangiato. Era diventato talmente scettico che solo dopo due svenimenti avvenuti nel mese di dicembre riuscì a convincersi che sarebbe diventato padre. Allora, quasi per un intero giorno, dimostrò la sua gioia in maniera commovente. Ma dato che una persona non può mantenere livelli di gioia stratosferici all'infinito, Ingeborg prese atto che dopo lo scompiglio generale di quella straordinaria emozione, le cose non tardarono a riprendere i consueti ritmi, solo che adesso lei si sentiva incredibilmente e persistentemente in preda al malessere. Aveva comunque trascorso la più incantevole delle estati. Pertanto si disse che quando le giornate fossero state grigie e piovose, quando lei avesse avuto freddo e fosse stata vittima di nausee feroci, si sarebbe potuta consolare con il ricordo del piacere procuratole dal periodo appena vissuto. Quell'estate la Prussia orientale era stata visitata da un lungo periodo di siccità, un ininterrotto bagno di sole che Ingeborg aveva vissuto sempre stando all'esterno, in un'apoteosi di sfrenata libertà. Il suo corpo, leggero e perfettamente bilanciato, aveva fatto miracoli durante le esplorazioni delle sterminate foreste che avevano origine a nord del lago di Cochensee e che si estendevano senza soluzione di continuità fino al mare. Dopo aver preparato per tempo il pranzo di Robert, metteva nello zaino un po' di pane, del burro e un cetriolo, oltre che al suo libro di grammatica tedesca, e remava con il barchino giù per il lago, poi lo tirava a riva dove iniziava la foresta e di lì si incamminava. Nulla sembrava stancarla. Girovagava per miglia lungo sentieri che parevano non aver mai fine, nel fitto della foresta, una creatura d'aria e di sole silvestre e armoniosa quanto le bianche farfalle che volteggiavano fra gli enormi tronchi di pino. Di tanto in tanto, per poter assaporare meglio tali visioni, si sdraiava sul delizioso tappeto primaverile di mirtillo e giaceva immobile, osservando le sommità verdi-bluastre dei pini che oscillavano e sembravano sussurrare nella brezza lassù in alto, sopra la sua testa, stagliandosi contro il cielo sereno di settentrione. Non si udiva altro rumore e quel silenzio era rotto solo occasionalmente dal verso di un picchio o dal grido che pareva provenire da distanze infinite di un falco. Nessuno, tranne lei, sembrava esplorare la foresta. Incontrare un taglialena o dei bambini che raccoglievano mirtilli rappresentava un evento eccezionale. Quando ciò accadeva, Ingeborg diveniva l'oggetto di persistenti sguardi carichi di curiosità. Le foreste erano troppo lontane dalle strade battute dai turisti o dai viaggiatori stranieri e le donne del posto, anche se amavano le foreste, erano troppo assorbite dalle loro incombenze domestiche per vagare in luoghi lontani della loro zona di ancoraggio. Per quanto riguardava invece coloro la cui occupazione li spingeva in quella regione remota, il fatto di incontrare qualcuno appartenente alla classe che poteva pranzare ogni giorno comodamente a casa, se così avesse preferito, e per giunta di genere femminile, che avrebbe dovuto starsene là a prepararlo, costituiva una fonte di infinita sorpresa. Quella giovane donna, comunque, aveva l'aria così felice che nell'incontrarla tutti le sorridevano. Supponevano si trattasse di una di quelle persone che, resa anemica dalla città, erano venute a trascorrere i mesi estivi presso la casa di qualche guardia caccia della corona. Così si spiegavano l'assenza di ogni forma di dovere, lo zaino e il colorito della carnagione. Comunque, bastava il suo passaggio per rendere una giornata interessante. Essi la osservavano mentre appariva e scompariva fra gli alberi, fino a che, difficilmente distinguibile da una delle farfalle bianche, scompariva inghiottita dalla distanza. Quando era troppo accaldata per continuare, si adagiava in un punto scelto con gran cura, preferibilmente un albero deciduo, come un acero o un ciliegio a grappoli, che pennellava di squisito, intenso verde il rigoglio indistinto delle tonalità rose e grigio sospese sopra i pini. Un albero che accanto a quei giganti sarebbe apparso parecchio piccino, a malapena capace di arrivare alle loro ginocchia, ma che visto dalla base del suo tronco, Ingeborg scopriva essere grande quanto i tigli del suo giardino di Kökensee. Non sedeva all'ombra della sua chioma, se ne stava a qualche distanza dove poteva osservarla ondeggiare e rifulgere di luce. Indi, appoggiando la schiena a un pino, consumava la porzione di pane e cetriolo, sentendosi traboccante di gratitudine per l'immensa gloria del creato. Era un sentimento per lei impossibile da spiegare. Albergava nel suo animo e tanto bastava. Quell'estate sembrava accompagnarla ovunque andasse e qualunque cosa facesse. Camminava immersa nella grazia divina. Guardandosi attorno sentiva che era una grazia insita nella luce e nel suo straordinario fulgore, così come nel tenue chiarore della foresta, ma si trovava anche nell'aria pura e balsamica, il cui odore era ora soave e ora pungente. Nella sensazione che provava sentendo gli aghi di pino e le pigne secche dell'anno prima sbriciolarsi sotto i suoi passi. Nei cuscini di muschio di un verde così intenso e brillante che invitavano a una carezza, o nei licheni caldi di sole che si staccavano a scaglie quando i suoi piedi urtavano una radice. Infine, stava nell'essere giovani e in salute e nel poter consumare il proprio pasto sedendo tranquilla, riposando e fremendo di gioia per la consapevolezza che la giornata avrebbe avuto ancora in serbo per lei lunghe ore spensierate. Sì, la grazia divina si trovava in tutte quelle cose. Era in ognuna di esse, sempre e comunque. Presa da un improvviso slancio di attività, Ingeborg afferrò il libro di grammatica tedesca, animata dal desiderio di offrire un tributo in cambio di quel gran dono, qualcosa che le costasse uno sforzo. Non era forse un atto dovuto il rendere grazie, e durante le sue spedizioni ne assimilava ampi capitoli, imparando intere pagine a memoria e ripetendole ad alta voce, a beneficio dei tronchi di pino e dei picchi. Quando il sole iniziava a calare, si avviava verso casa, talvolta perdendo la strada per lunghi tratti, poi affrettandosi per via della cena di Robert, divenendo parecchio accaldata, e l'effetto congiunto del calore, della fretta e del cetriolo, ai quali si aggiungeva una buona dose di estenuazione fisica, sfociava spesso in quelle apparizioni trionfali in serata, nei laboratori di lui, alle quali egli si stava oramai abituando. Nel mese di gennaio, quando non era altro che una pozza di malessere, Ingeborg irrevocava con struggente nostalgia quei giorni di perfetta felicità, chiedendosi se si fosse trattato di un sogno o se fossero realmente esistiti. Fin dall'inizio non vi era stata alcuna forma di timidezza in lei riguardo alla questione relativa alla nascita dei bambini. Nel corso della sua esistenza, a casa dei genitori, l'argomento non era mai stato preso in considerazione. Del resto era naturale, pensò Ingeborg ricordando tale omissione, visto che non ve ne erano. Parlare di bambini in quella sede sarebbe stato tanto insensato quanto parlare di vescovi a Kökensee. Arrivò pertanto nel nuovo vicinato con la mente sgombra da ogni pregiudizio e trovando l'atmosfera densa di bambini, immediatamente con la sua usuale rendevolezza adottò a sua volta l'atteggiamento prevalente, non mostrando alcun imbarazzo al riguardo. Lì Non era necessario attendere sino alla nascita per menzionare i propri figli. Non erano ritenuti innominabili fino a che nascendo fossero stati battezzati alla cristianità e alla decenza. Erano al contrario una presenza importante, la più importante in assoluto nella vita della donna, ed era considerata cosa naturale discuterne a fondo. La donna senza figli era una creatura compianta, mentre colei che ne aveva il maggior numero era la più orgogliosa. Per quanto i bambini la impoverissero ulteriormente e spesso la angariassero, ella possedeva pur sempre qualcosa in più dei suoi vicini. Anche Else aveva chiesto fin da subito quale sarebbe stata la stanza dei bambini, e persino la baronessa Glambeck, quel sacro mostro di rispettabilità, parlava di nascite con dovizia di dettagli e mostrando un livello di interesse inferiore fino a quello che traspariva quando parlava di decessi. A suo modo di vedere, si trattava di un tema di conversazione assolutamente appropriato e naturale per qualsiasi giovane moglie. E nel restituire la visita ai Drummle 15 giorni più tardi, rimase senza parole e parecchio irritata nello scoprire che quanto aveva detto in occasione dell'incontro precedente era diventato irrilevante a causa delle condizioni di Ingeborg, che godeva chiaramente di ottima salute. A onor del vero, il fallimento di Ingeborg, quale madre in attesa, rovinò totalmente la nuova riunione con i Glambeck. I modi della baronessa, che al suo arrivo erano stati cordiali, divennero freddi e scostanti, come se in occasione della visita precedente Ingeborg, agendo sotto mentite spoglie, l'avesse indotta a mostrarsi più cordiale del lecito. Per lei era impensabile dimostrare una qualsiasi forma di familiarità alla moglie di un pastore, e una moglie di pastore dall'aspetto tanto bizzarro e di così liberi costumi, se non per dar mostra del più appropriato spirito cristiano in occasione di un'imminente nascita o di un decesso. La moglie di un pastore apparteneva a quella classe a cui era possibile esternare la propria cordialità solo in caso di dimostrazioni di sofferenza o di colpa. Offesa, seppur costretta a proseguire la visita, la baronessa confinò alla conversazione una serie di domande che stillavano ostilità, come ad esempio dove era possibile acquistare scarpe come le sue e se Frau Pastor pensasse che punte tanto strette fossero salutari per la circolazione e adatte ai lavori domestici. Ingeborg non riusciva a credere trattarsi della stessa donna che tanto maternamente si era prodigata attorno al suo letto quel giorno a Glambeck. Si sentì tenuta a grande distanza, deportata sulla sponda opposta di un golfo. Per la prima volta comprese come il suo matrimonio l'avesse messa in una classe sociale inferiore e che lì, in Germania, il divario tra la classe alla quale apparteneva la baronessa e quella alla quale apparteneva lei era molto ampio. Ai loro occhi lei era la semplice moglie di un pastore e quando le fu chiesto della sua famiglia, accadde all'inizio della visita e in tono inquisitorio e le diede seppur involontariamente un'impressione errata. Ah, equivale a ciò che noi qui chiamiamo sovrintendente, replicò la baronessa, annuendo lentamente più volte nell'apprendere che il padre di Ingeborg era un vescovo. E dopo una serie di domande riguardo al matrimonio della sorella di Frau Pastor, di nuovo annuì lentamente con il capo ripetute volte e la informò che colui che sua sorella aveva sposato era un direttore scolastico. Come Herr Schulz, disse la baronessa, riferendosi al direttore della scuola del villaggio. Sul tavolo una fotografia di Judith attirò l'attenzione della baronessa, oltre a quella del barone, che, sebbene più intensa, venne manifestata in modo ben più accorto. Si trattava di Judith in abito da sera, con una generosa scollatura che mostrava fattezze della forma perfetta. Ingeborg la prese con un gesto che esprimeva il naturale compiacimento nell'avere quale sorella una creatura così incantevole e la porse alla baronessa. Eccola, disse Ingeborg colma di orgoglio. La baronessa fissò il ritratto, troppo sbalordita per rispondere. Cosa? Proferì. Questa è la moglie di un direttore di scuola? Questa è la sorella della moglie del nostro pastore? Io credevo. Si interruppe all'improvviso e con un gesto deciso ripose la fotografia di nuovo sul tavolo, aggiungendo di non poter fermarsi per cena. Da allora ogni rapporto con i Glambeck si era interrotto. La baronessa dunque prese atto della piega soddisfacente che avevano preso le cose alla canonica solo alla vigilia di Natale, mentre stava nel suo palco in chiesa, dove lei e il barone avevano deciso di tornare in occasione delle più solenni festività in segno di riguardo verso un Herr Dremel desideroso di fare ammenda. Sul finire del canto dei versi opera della corale, infatti, ella vide Ingeborg più in basso sul suo banco, reclinarsi di nato e rimanere immobile, accasciata. Il libro di preghiera spinto in avanti e spiegazzato sul piano d'appoggio di fronte a lei, in un atteggiamento di completa indifferenza alle apparenze. La baronessa Si astenne dal toccare con il gomito il barone, poiché la sua posizione sociale non glielo permetteva. Dovette quindi faticare non poco per tenere a freno il suo istinto, che le suggeriva di sgomitare a tutto spiano. Herr Dremmel non poté vedere che cos'era accaduto, dato che la liturgia prescriveva che durante il canto egli stesse celato alla vista da una sorta di separe di legno posta ai piedi del pulpito, dove si teneva occupato immaginando nuove sperimentazioni in campo agricolo. Il canto, quindi, sarebbe proseguito fino alla sua riapparizione. E se si fosse scordato di uscire? Si chiese la baronessa. Aveva sentito dire che una volta se n'era dimenticato ed era rimasto a lungo dietro il separé, avendo la malaugurata sorte di venire folgorato proprio in quella sede da una rivelazione riguardante il potassio, rivelazione che l'aveva trascinato nell'oblio per la maggior parte dell'ora dedicata alla messa. In quel lasso di tempo il coro, combattendo tenacemente con una debolezza che rischiava di sopraffarlo, aveva ripetuto l'inno per ben 15 volte. E se fosse caduto di nuovo in preda alle meditazioni? Lì non vi era sagrestano, custode, addetto alle panche o altra sorta di incaricato ufficiale che potesse prendere l'iniziativa. La congregazione non avrebbe compiuto alcuna azione che non fosse strettamente consueto prescritta. Non vi era alcun parente di sesso femminile venuto a trascorrere il Natale con Frau Pastor, presenza che di certo si sarebbe avuta se la Frau Pastor fosse stata ciò che era opportuno fosse, nonché ciò che ogni altra moglie di pastore fortunatamente era, una donna di razza tedesca. Per la baronessa, scendere e prestarle soccorso sotto gli occhi di tutta Kökensee sarebbe equivalso ad abbassarsi a un livello decisamente inferiore, oltre a metterla in difficoltà con la moglie del guardaboschi e con quella del direttore della scuola di Glambeck, che era anche il postino, entrambe appartenenti alla stessa classe sociale della giovane Frau Dremmel. Le due donne, infatti, si sarebbero sicuramente molto risentite per il minimo accenno di intervento, interpretando quale ingiusto favoritismo. Herr Dremmel, comunque, emerse puntualmente, salì sul pulpito e, aprendo il consueto manoscritto, prese a leggere l'ormai noto testo. La congregazione se ne stava seduta immobile, rapita nella ansiosa attesa di vedere che cosa sarebbe successo quando il suo sguardo si fosse infine posato sul corpo riverso sulla panca. Avrebbe interrotto la funzione per scendere e portare sua moglie a casa? E in tal caso la congregazione avrebbe dovuto aspettar lì sino al suo ritorno, oppure sarebbe stata autorizzata a disperdersi e a dirigersi verso i rispettivi alberi di Natale e festeggiamenti? Herr Dremmel leggeva all'infinito, illustrando in tono semplice e innocente la storia della Natività e descrivendo con dovizia di dettagli i candidi accessori di greggi, angeli, vergini e stelle, con quella tonante veemenza così vicina alla riprovazione che era diventata una caratteristica abituale delle sue prediche. Il testo era Pace in terra tra gli uomini di buona volontà. Come sempre egli intervallava la lettura con pugni ben assegnati sul banco di fronte a lui, scagliando le parole come se si trattasse di anatemi. Non guardò mai in direzione della moglie. In quel momento era totalmente al di fuori dei suoi pensieri. Non attribuendovi grande importanza, non aveva colto la concentrazione e l'immobilità dei fedeli. Non si sentiva volare una mosca e nessuno cambiava continuamente posizione come di solito avveniva. Tutti i bambini in età scolare erano affacciati alla balaustra della balconata che ospitava l'organo, immobili e attenti, e persino il barone Glambeck era rimasto sveglio. Al termine della funzione, Herr Dremmel, come di consueto, rimase dietro il separé ligneo, fino a che tutti furono usciti e fu solo quando ne emerse, per attraversare la chiesa in direzione dell'unica porta, che si accorse di Ingeborg. Per un attimo pensò che fosse rimasta lì ad aspettarlo in una assai poco composta, e ancor meno consona posizione, in una postura di infantile rilassatezza. Mentre stava per rimproverarla, si accorse che sua moglie era svenuta e, ripetendosi tale episodio per la seconda volta in 10 giorni, egli poteva dirsi finalmente, senza alcun dubbio, il più felice degli uomini. Nonostante il vento impetuoso, ciascuno dei fedeli si soffermò sul piazzale della chiesa in attesa del pastore. Trattandosi della vigilia di Natale, i Glambeck e i notabili più anziani sarebbero stati lì comunque per ricevere e contraccambiare gli auguri natalizi, ma in questa occasione avevano l'animo colmo di compiacimento e non solo di pazienza. Anche il resto della congregazione lo attendeva con espressione di ansia partecipe. Quanto prima, Tutti costoro furono ricompensati dall'apparizione del pastore, con ancora indosso la tonaca e i paramenti sacri, e recante un fardello corrispondente all'ancora priva di sensi, Frau Pastor. Egli la portava allo stesso modo in cui si sentono in braccio i lattanti, e il suo viso era illuminato di gioia e orgoglio. L'evento prometteva di essere tanto interessante quanto un funerale. La congregazione riversò su di lui infinite congratulazioni, mentre doppie e triple strette di mano, che egli tendeva a quello scopo da sotto il corpo inanimato di Ingeborg, si susseguivano senza posa. La folla fu lieta di constatare che, mentre egli contraccambiava gli auguri, le lenti degli occhiali gli si erano appannate per le lacrime di gioia. Fu la prima cosa davvero popolare che Ingeborg compì dal momento del suo arrivo. Nemmeno se l'avesse pianificato con tutto l'acume e la cura possibile avrebbe potuto ottenere un effetto così ingraziante in seno alla comunità. Non avrebbe potuto scegliere il giorno più appropriato. Era ben valsa la pena di attendere così a lungo, pensò un Robert fuori di sé dalla gioia, per poi ottenere un simile dono natalizio. La baronessa, la quale assieme al barone era stata molto cordiale, si sentì lusingata, come se il suo esempio fosse stato preso a cuore ed emulato, anche se naturalmente non in modo così perfetto, dato che lei era stata capace di sfornare i suoi bambini sempre in tempo per la deposizione di doni sotto l'albero. L'intero villaggio si sentì enormemente gratificato vedendo che una Frau Pastor, priva di conoscenza, veniva ricondotta a casa attraverso le sue strade. Quel corpo inanimato che ciondolava penzoloni emanava lo stesso prestigio di una salma. Tutti erano compiaciuti e commossi. E quando Ingeborg, dopo parecchi tentativi di persuasione, riprese conoscenza sul sofà del salotto della canonica, visse il giorno più felice della sua vita, un giorno di incommensurabile gioia e devozione in cui non ricevette che attenzioni, espressioni d'orgoglio e carezze premurose. Almeno per quel giorno l'interesse nei suoi confronti superò di gran lunga quello per i fertilizzanti e il laboratorio rimase un luogo dimenticato. Fu viziata come non mai, e pur sentendosi di nuovo bene, rimase obbedientemente sul divano perché così il marito le aveva imposto. Che bello essere di nuovo al centro della sua attenzione, pensò osservando Robert con occhi colmi di felicità mentre lui le svolazzava attorno prodigandosi mille cure. Non essendo lei più in grado di farlo, fu lui a finire di addobbare l'albero e vi fissò le candele, interrompendosi di tanto in tanto per raggiungerla, baciarle le mani e coccolarla. A Ingeborg sembrava che il proprio corpo irradiasse raggi luminosi, capaci di illuminare gli angoli più remoti. In un paese dove a Natale ogni casa riluceva, la loro brillava ancora più fulgida. Le candele sull'albero gettavano bagliori su di lei che, acciambellata sul divano, parlava e rideva gaiamente, il cuore colmo di allegria, orgoglio e solennità, perché ora lui le credeva, perché infine era riuscita a incamminarsi sulla strada del supremo dovere. E adesso poteva contraccambiarlo, sdebitarsi per tutta la felicità sopraggiunta nella sua esistenza grazie a lui. Ilse, convocata per la consegna dei doni, comparve tutta rosea e lustra dopo un accurato lavaggio. Per Ingeborg vi furono delle sorprese. Le fu richiesto di tenere gli occhi chiusi mentre queste venivano disposte in bella mostra. I pacchetti la commossero un poco. Anche perché Robert, nelle settimane precedenti, le era parso come sempre cieco a tutto e a tutti eccetto che al suo lavoro. Ricevette una ciotola di giacinti avvolti in una carta spiegazzata guarnita da fiocchi di seta, che egli doveva aver confezionato con immensa difficoltà e incredibili precauzioni affinché lei non la vedesse. Poi un volume di poesie di Heine, un paio di guanti di pelo, un bracciale d'argento e un sorridente maialino di marzapane con un cartellino attorno al collo, recante la dicitura Ich bringe Luck. Ella, non comprendendo il significato del Natale cristiano, aveva per lui soltanto una scatola portasigari. Con il grembo colmo di regali e il polso adorno del bracciale, per il quale lui provava l'orgoglio di un uomo onesto, e le spiegava con grande accuratezza il funzionamento del congegno di chiusura, assicurandole che si trattava di ottimo argento, ben sapendo quanto le donne amassero adornarsi di quegli splendori dal fasto barbaro, Ingeborg gli passò il braccio attorno al collo e si scusò per la sua terribile ignoranza sugli usi e costumi del Natale, per la sua mancanza di immaginazione e per la sua solitaria, banale e misera scatola portasigari. Quando posò la guancia sui suoi capelli così simili a pelliccia, egli la tirò a sé e la benedisse. Benedisse la sua mogliettina, il regalo che aveva in serbo, il più grandioso che potesse donargli. Al termine di questa benedizione, impartita e ricevuta con solennità, entrambi avevano gli occhi lucidi. Ilse li guardava con benevolenza e alla fine si avvicinò per stringere loro la mano, unendo ai ringraziamenti per i doni ricevuti le congratulazioni per il lieto evento previsto per l'estate successiva. Luglio, proferì Ilse dopo un attimo di riflessione, dobbiamo preparare la stanza, aggiunse. Ingeborg sentì il proprio essere cedere per l'impossibilità di contenere tanto amore.